locale stasera si balla, è un bel posto come piace a me, e la gente felice che balla, una dolce lenta atmosfera. Ma io sono un po' giù stasera, sono solo, non aspetto nessuno, anche a me servirebbe una donna che ballasse un lento con me. Trovare